Milano, Milano, Milano, Milano, c'è tanta roba a Milano. Qua una volta era tutta campagna. Si dice, una frase fatta, però. Però è vera. Qua non c'era niente. C'è una foresta. Una foresta verde, alberi d'alto fusto, le querce. Ogni tanto radure verdi, i fiumi, quanta acqua che c'era, un sacco d'acqua c'era, una roba incredibile. Montagne così vicine, si possono quasi toccare, no? Anche adesso, però non si vedono perché c'è tutto grigio, si vede un tubo. Milano. Adesso è Milano, il nulla. E qui si innesta la leggenda, perché... Come spesso accade quando si va un po' troppo indietro nel tempo, alla storia si sovrappone un po' di leggenda. E a noi la leggenda piace, soprattutto quando è bella come questa qua che sto per raccontare. Allora, c'era una volta, nella Gallia centrale, un grande re, il cui carisma lo fa essere capo politico, venerato dai suoi cittadini, e anche capo religioso, temuto e rispettato dai druidi. Lui si chiama Ambigato. E regna sulle tribù dei Biturigi, ma riesce a unire tante tribù galliche, quindi non c'è una sola tribù praticamente. Il suo villaggio si chiama Avaricum, sta più o meno dove oggi c'è Bourges, nel centro della Francia, vicino ai castelli della Loira. Il benessere porta tanti bei bambini e le terre non bastano più. E allora, ormai vecchio e prossimo alla morte, Ambigato chiama a sé i suoi due nipoti, Segoveso e Belloveso. Dice loro che deve allargare la frontiera e loro devono aiutarlo ad allargare la frontiera, devono uscire da Avaricum con delle famiglie per cercare nuovi possibili insediamenti. Segoveso non se lo fa dire due volte, parte come un razzo, cavalca, cavalca, cavalca, arriva fino al Danubio. Anche Ambigato prende sotto braccio l'altro, Belloveso, che in realtà è il suo prediletto, per cui... e gli dice: devi andare a sud, devi superare le Alpi, devi cercare un luogo sacro in cui edificare un villaggio. Lo capirai quando il tuo scudo prenderà vita sotto il bianco spino caro a Belisama, dea del fuoco e compagna del dio della luce Belanu. Così dicono gli aruspici. Infatti Belloveso non porterà solamente le famiglie, porta anche dei guerrieri, perché insomma deve affrontare un lungo viaggio, e soprattutto i sacerdoti che interpretano i segni del cielo e della terra. Non è proprio convintissimo Belloveso, forse sperava di girare libero e indisturbato come il fratello, cavalcare lungo il Danubio, lungo i fiumi, no? Ma è poco a poco, perché Ambigato gli appioppa i druidi più fanatici, una specie di 5 stelle ante litteram, no? E che sono pronti a farlo fuori se non segue le indicazioni del nonno. E così di malavoglia parte per cercare un posto dove il suo scudo prende vita. A me mi pare una stronzata, però lui parte. Il viaggio è lungo, è molto lungo, ma ne giunge notizia un po' ovunque, per cui altre tribù si addensano intorno alla tribù dei Biturigi, guidata da Belloveso. Arriva a Marsiglia, poi arriva, supera le Alpi, al Monginevro, arrivano una pianura verdissima, tra l'altro, che a Belloveso sembra del tutto uguale a quella da cui è partito, per cui dice: ma che cosa sono partito a fare per andare a trovare dei posti uguali? Continuano a trovare tribù ostili, combattono, vincono, perdono, sono morti, feriti, nuove tribù che aumentano il numero di persone, insomma, sono tantissimi praticamente alla fine. Quando la carovana arriva al Ticino, Belloveso è sull'orlo di una crisi di nervi. Allora, è in giro da mesi, il suo scudo non ha mai preso vita, è ovviamente immobile, ma i druidi non lo mollano un momento. Ma chi cazzo me l'ha fatto fare? Pensa sto ragazzo. Ma io stavo così bene a casa, ma porca... Ma nonno, ma cosa... Ma perché? Gli insubri di Castelletto Ticino, che incontrano per aver sconfitto gli Etruschi nell'ennesima battaglia, lo informano peraltro che sta sbagliando strada. Attenzione, se vai verso quella direzione, torni verso le montagne, è molto meglio andare al sud, che ci sono anche un sacco di fiumi, lì si sta bene. Belloveso per un attimo pensa che col suo esercito potrebbe polverizzare quei selvaggi e restare lì, ma lì appare un druido. Non ci provare. Devi trovare il posto dove lo scudo prende vita. Vabbè, ok, scusa. E puntando a sud, due o tre giorni dopo, arrivano tutti in una radura, dove, con olimpica tranquillità, sta pascolando una scrofa. Una scrofa che ha il pelo solo nella parte superiore del corpo, che la fa somigliare a un cinghiale. Oh, ne hanno incontrati tanti di animali in quel viaggio lunghissimo, ma un cinghiale è la prima volta. I druidi, appena la vedono, si bloccano. No dai, basta vedere che... Un paio si avvicinano per vedere che pianta sia quella che con somma goduria la scrofa si sta mangiucchiando. È un biancospino, è la pianta sacra. I druidi si inginocchiano felici e lanciano preghiere alla dea Belisama e al dio Belanu. Belloveso rimane interdetto. Ragazzi, va bene, ok, avete visto una scrofa, ok, però c'è mica bisogno di fare tutto questo casino. Cioè, il mio scudo è bello fermo, non è che si è mosso. A che uno dei druidi si avvicina, sfila lo scudo dal braccio del giovane con un sorriso di compatimento e glielo volta davanti. Mio signore, cosa vedete? Vedo un tubo. Belloveso deve un po' aguzzare lo sguardo, perché sul fronte dello scudo ci sono tanti disegni, a dire il vero. Allora il druido gli indica il centro. Mal disegnata, al centro campeggia la figura di un piccolo cinghiale. E poi indica la scrofa seminanuta che beatamente sta banchettando col biancospino. Avete visto, mio signore? Lo scudo ha preso vita. La profezia si è avverata. Oh, signore, Belloveso cade in ginocchio, finalmente, che meraviglia! Può fermarsi e fondare il suo villaggio, che chiamerà Medellan, che vuol dire nella sua lingua terra al centro, ma anche santuario al centro. E infatti lì, dove ha trovato la scrofa, farà costruire un santuario per ricordare per sempre quel luogo magico. Allora, il luogo dove Belloveso trova la scrofa è tra Piazza della Scala e il quadrilatero della Galleria. Lì sorge un santuario dedicato a Belisama, che poi i romani distruggeranno e ricostruiranno qualche metro più in là, dedicandolo a Minerva, la dea che nel Pantheon romano sostituisce Belisama, che poi i cristiani distruggeranno, lo riconsacreranno a Santa Tecla, che poi i visconti distruggeranno e lì sopra verrà edificato il Duomo. Viva Milano! Allora, questa qua è la leggenda, insomma, io ci credo, perché io le leggende ci credo, non so voi, ma io le leggende ci credo, sempre. Soprattutto quelle che riguardano Milano, insomma, che è la mia città e anche la nostra città, insomma. Ma quello che vorrei fare con voi adesso è un gioco. Allora, Milano si può raccontare in migliaia di modi diversi. La mia idea è stata questa, immaginare che di trovare quattro posti, luoghi, situazioni, personaggi, non lo so, che possano essere raccontati in tanti modi diversi e metterli in gara l'uno contro l'altro. Come una Champions League, no? Visto che va di moda, visto che ci sono l'Inter e il Milan, no? Tra l'altro, che forse vanno anche in semifinale uno contro l'altro, fra l'altro, che sarebbe fantastico. Quindi, a due, una specie di Champions League, semifinali e poi finali. Ma chi è che vince le semifinali? Chi è che decide che vince la semifinale? Il pubblico è sovrano. Per cui, cosa farò? Io racconterò due aneddoti di uno e dell'altro, un aneddoto di un fatto e un aneddoto dell'altro, e voi voterete quello che vi è piaciuto di più, quello che vi sembra più intrigante, quello di cui volete sapere qualcosa di più, perché poi dopo quello che vince continua, quello che perde si ferma lì. Siete curiosi? Votate. Non ve ne frega niente? Non lo votate, ok? Allora, è chiaro che su Milano è altro che quattro cose, ce ne sono 800 di cose da poter raccontare. Io ne avevo scovate 8, ne ho scovate anche più di 8, è vero. Comunque ne avevo scovate 8 e oggi quando ho detto, vabbè, devo sceglierne 4, non sapevo quali scegliere. Una l'ho scelta, Una la voglio raccontare io, la scelgo io, se sono qua sopra posso, ho questo privilegio, ma le altre tre le scegliete voi. Quindi adesso io scendo un po' fra il pubblico, qui ho questa che è la mia, e la metto qua. Qui ce ne sono sette, fra queste sette ne sceglierete tre, ok? Allora, vado a caso. Ecco qua. Diciamo che la mia si scontra con la sua, che non so quale sia, per cui adesso lo vediamo. E l'altro scontro è fra le vostre due, ok? La tua è? Arrivi e partenze. Arrivi e partenze, benissimo. La mia è Rocktown. La vostra? Nuovo Regio, Duca al Teatro. Contro? Vie d'acqua. Vie d'acqua, oh là là. Allora, cosa volete prima, arrivi e partenze o Rocktown? Rocktown, il primo che dice ha vinto. Stavo per dire la prima gallina che canta ha fatto l'uovo, però sembra brutta come cosa, per cui è meglio non dire. E allora Rocktown, va bene. Tac, tac, tac, eccolo qua Rocktown. Allora, vabbè, Rocktown. Milano. Milano è una città di musica, una città dove c'è tanta musica, da sempre, no? Penso che ognuno di noi abbia memoria di un concerto pazzesco, un concerto memorabile, un concerto incredibile che è successo a Milano quando era picca, visto a Milano quando era giovane o anche di recente, quindi anche da adulto, ecco. Io ne ho tanti, potrei raccontarne veramente tanti. E forse li racconterò se poi andrò avanti, ma io vorrei incominciare innanzitutto al momento in cui tutto è iniziato. 18 maggio 1957. Io non c'ero, lo dico subito, ma neanche i miei genitori stavano insieme, se per quello, per cui è il giorno in cui al Palazzo del Ghiaccio di Via Piranesi si tiene il primo festival di rock and roll e danze jazz, si chiama così. Lo organizza il 31enne Bruno Dossena, che è un abile ballerino di boogie e vincitore in coppia con la moglie Marisa Oriani di due campionati mondiali di bebop e rock acrobatico. Il rock and roll è la musica nuova che arriva dall'America, la musica dei giovani che si contrappongono per la prima volta nella storia come classe sociale ai loro genitori. Oggi quei suoni ci sembrano abbastanza innocui, tutto sommato, ecco, ma a quei tempi fanno lo stesso effetto di un muro di rumore inascoltabile, ecco. Forse a Dossena, però, della ribellione giovanile non gliene frega assolutamente nulla. Che nel 1956 Dossena ha partecipato all'Ascia o Raddoppia, che è l'emblema del mainstream, quindi altro che ribellione giovanile. Tra l'altro presentandosi in geografia e vincendo un'automobile. Il suo viso rassicurante, il suo fisico un po' dinoccolato, non lo fanno proprio somigliare a un Teddy Boy. Probabilmente la volontà di organizzare il festival assieme alla moglie Marisa e all'amico ballerino Umberto Gallone deriva solamente dal fatto di volersi creare una serata tutta per sé, ecco. Potersi esibire, accreditarsi come ballerino, come organizzatore e magari fare qualche soldo, né più né meno. Dossena poi ci sa fare, trova anche uno sponsor, Loran Soda. Non so se esiste ancora. Esiste ancora? Esiste ancora, perfetto. Campeggia a caratteri cubitali. È il nome Oran Soda, cioè il poster Festival di Dance Oran Soda. E include poi nella serata anche alcune band che fanno un'esibizione di danza e l'altra suonino per il pubblico quella musica così nuova, così particolare, appunto il rock and roll. Così almeno pensa Dossena verrà un po' di più di gente, no? Perché sennò ce la cantiamo e ce la suoniamo soltanto noi. D'altronde al Palazzo del Ghiaccio, fra l'altro, cioè, non è che ha scelto un posticino, non è che ha scelto l'ex Alge, no, al Palazzo del Ghiaccio ci stanno 2000 persone. E il cartellone che reclamizza la serata non è poi sta roba così invitante. Allora, c'è gara di rock and roll per dilettanti, il Colombette, re del cha-cha-cha, la nazionale francese di bebop, il fantasista Torquato il molleggiato, i campioni italiani di blues e di charleston, Bruno Dossena e tre orchestre. Due sono molto in voga, la Original Lambro Jazz Band e la Swing Parade. Una molto meno nota, Celentano and His Rock Boys. Adriano Celentano già canta da un po' al Santa Tecla, Dossena lo conosce, gli piace la grinta, per cui lo invita come unico cantante della serata, e lui per l'occasione tra l'altro rimpolpa i suoi Rock Boys con un pianista, un giovane laureando in medicina, un certo Enzo Iannacci. Insomma, il cartellone somiglia a quello di una sagra di paese, fondamentalmente, no? Non è che sia sta roba così invitante, oh, mamma mia, chi sarà mai, no? Cioè, perché anche Celentano lo conoscono in cinque, cioè non è che... Ma Dossena ha trascurato il potere della parola rock and roll, o forse della parola Oran Soda, non sappiamo bene quale dei due, perché alle 9:30 di sera, davanti al Palaghiaccio, ci sono 7.000 persone. Deve intervenire la polizia a sbarrare gli ingressi. I 5.000 rimasti fuori sfasciano macchine in tutta la via. Sono incazzati neri, giustamente, vorrei andare. Alcuni fedeli che stanno partecipando a una processione guidata dall'arcivescovo Montini, il futuro Papa Paolo VI, attratti dal macello, cosa fanno? Mollano la processione e vanno al Palaghiaccio. Tanto Montini scrive nei giorni successivi un articolo infuriato su tutti i giornali. Ma come? Ma la degenerazione dei costumi! Tra l'altro rimangono fuori in mezzo a quei 5.000 poveracci anche Torquato il Molleggiato e alcuni membri della Swing Parade che erano usciti a farsi un caffè e nessuno li riconosce. Riesce a entrare per un periodo della cuffia Enzo Iannacci, non si sa bene come ha fatto. L'orario di inizio, per via di sti casini, slitta di continuo. Celentano sale sul palco alle 11:30 di sera. Canta in un delirio assoluto una manciata di pezzi rock, una sorta di cover di brani americani, di cui lui storpia l'inglese facendolo diventare una lingua maccheronica priva di significato, perché Celentano non ha mai imparato l'inglese. E non so, si sa, no? Quella canzone che ha fatto negli anni 70 in cui prendeva in giro proprio queste cose qua. D'altronde Celentano non ha ancora brani originali suoi, composti da lui, da proporre. E questo è quello che fa nelle serate a Santa Tecla. Fa questa roba qua, propone dei classici rock, storpiandolo il testo in specie di maccheronico gramellot. E poi non ha mai cantato davanti a 2.000 persone, Celentano. Se 2.000 persone che poi tra l'altro ballano, gridano, si agitano, sudano come dei matti e sono tutti ancora ben vestiti, ben pettinati, come vuole mamma, per i precisi, no? Perché insomma non sei mica... Per un'ora soltanto questi ragazzi, questi 2.000 fortunati, che torneranno a casa felici come delle Pasque, sono stati catapultati negli Stati Uniti, praticamente. Si sono sentiti come quelli che vedono suonare Elvis o Little Richard. Sono al centro di tutto, anche se per poco. Basta questo per cambiare prospettiva. A Celentano la serata servirà per pensare in grande. A Iannacci per capire che potrà essere felice non solo con la medicina. Il successo, tra l'altro, fa sì che molti altri promoter vogliono organizzare serate di rock and roll, ma a causa degli incidenti le forze dell'ordine bandiscono a Milano Celentano e rock and roll, per cui per alcuni mesi le serate del genere sono vietate. Deve intervenire Dossena in persona, che d'accordo con la polizia organizza al Teatro Nuovo una serata che chiamerà Processo Rock and Roll, dove pubblicamente invita gli spettatori a divertirsi, ma senza esagerare troppo. Celentano è presente. Prima della sua esibizione incita ironicamente gli spettatori ad applaudire, ma non senza esagerare, perché insomma bisogna fare troppo casino. Tra l'altro nella sua band c'è un membro nuovo, perché insomma le cose stanno andando abbastanza bene, no? Un certo Giorgio Gaber. La serata riesce senza intoppi, la serata al Nuovo, al Teatro Nuovo, e da lì in poi quindi il rock and roll potrà avere vita facile a Milano, purtroppo non per il povero Bruno Dossena, che nell'aprile del 1958 morirà tragicamente in un incidente stradale, ahimè. Finisce male. Cos'è che è? Arrivi e partenze? Arrivi e partenze. Ma chissà di che cosa parlerò, ma chi lo sa? Allora, qua, arrivi e partenze, eccolo qua, arrivi e partenze, allora, è il 1 luglio 1931, Ulisse Stacchini è fermo nel piazzale, Intorno a lui ci sono i geracchi fascisti, la giunta di Milano al completo, Monsignor XIII che è vicario dell'arcivescovo e migliaia di persone urlanti. Arriva il ministro delle comunicazioni, Costanzo Ciano. Mussolini non viene. No, non viene perché è offeso per l'assenza dell'arcivescovo Schuster, che non c'è perché è offeso per le persecuzioni fasciste contro l'Azione Cattolica. Insomma, mettetevi d'accordo. Il ministro prende una forbice e taglia un nastro tricolore. È fatta. La nuova stazione centrale è inaugurata. Ulisse Stacchini quasi sviene per l'entusiasmo. Perché? Perché il buon Ulisse, sessantenne architetto fiorentino, è l'ideatore della stazione, quindi è molto felice, ma soprattutto perché finalmente la stazione, il suo progetto, può prendere vita 25 anni dopo la posa della prima pietra. Eh sì, perché l'idea di costruire una nuova stazione viene infatti nel 1906, un po' sull'onda dell'Expo che si tiene proprio a Milano e ha come tema i trasporti, un po' perché la vecchia stazione centrale, che si trova a 600 metri più a sud, dove oggi c'è Piazza della Repubblica e dove abita lei, non ce la fa più, e non ce la fa più. Viene scelta allora un'area dove da una ventina d'anni c'è un bellissimo ippodromo con annessa pista ciclistica, la cui zona centrale viene usata per il tiro a volo e da alcuni anni anche per un nuovo gioco, il calcio, che sta effettivamente prendendo piede, tanto che una squadra cittadina che si chiama Milan ci gioca ogni domenica. Ma si sa come funziona qui da noi. Intanto mettiamo la prima pietra, poi vediamo, Infatti, intanto il trotto viene sfrattato e riposizionato dalle parti di via Padova, cioè di fronte a casa mia praticamente. Viene detto un concorso, partecipano 17 progetti, ma vengono misteriosamente tutti scartati. Cioè, non va bene. Nel 1912, sei anni dopo, c'è un altro concorso. Quindi, cioè, quando diciamo che in Italia le cose vanno male, cioè andavano sempre male, ecco, non è che ce le inventiamo noi, no? Ecco. C'è un altro concorso con delle richieste particolari, ci deve essere una grande galleria per l'arrivo delle carrozze, come le stazioni di Lipsia, la stazione di Stoccarda. A questo concorso partecipano 43 progetti e viene vinto da Ulisse Stacchini, con un bozzetto che con le richieste della galleria delle carrozze di Lipsia e di Stoccarda c'entra un tubo. Però vince lui. Ma scoppia la guerra. Fino a 1918 non se ne riparla. E poi ripensamenti, e farà di più grande, e metti una luce più qua, e qui più alto, e qui più basso, e togli le pensiline, e rimettile, e fai delle arcate. Insomma, il povero Stacchini non ce la fa più, deve rifare il calco in gesso un sacco di volte. Quando nel 1922 prende il potere Mussolini, Stacchini gli viene un colpo, non tanto perché è antifascista, ma che dice adesso questo qua blocca tutto e mi fa rifare da capo. E invece incredibilmente gli danno l'ok. Anche perché nel 1923 un incendio praticamente distrugge il salone principale della vecchia stazione, che è ancora esistente. Siccome di costruirla costerebbe più che farla nuova, dicono va bene, abbiamo già il progetto di quella nuova, va bene così, anche se è brutto fa niente, ok? Nel 1925 iniziano quindi i lavori di una costruzione che con le idee architettoniche del nascente regime fascista non c'entra niente, ma proprio niente. Unica concessione alle idee della dittatura, l'uso del marmo. Ma siccome costa, il marmo viene usato solamente fino ad altezza occhi. Poi, più sopra, si usa un cemento che lo imita. Così almeno siamo a posto. Le statue anche sono in cemento, fregi e statue sono tantissimi, quasi come in una cattedrale, ci sono due chimere enormi, una a sinistra, una a destra, che vigilano sull'ingresso dei binari alle arcate. Dall'altra parte, verso il piazzale, ci sono due statue di Pegaso, cavallo alato, c'è una lupa che allatta Romolo e Remo, c'è il leone di San Marco, c'è il biscione visconteo, c'è un'aquila simbolo della città di Trento, non si capisce bene per quale motivo, ma c'è, no? C'è una fontana con l'acqua che esce dalla bocca di una enorme faccia umana, mosaici decorativi, lampade Liberty nell'atrio interno e naturalmente fregi di fasci littori un po' ovunque. La cosa strana è che sono arrivati ancora noi, cioè ci sono ancora i fregi littori lì, non li hanno tolti, ma forse è anche giusto così. Insomma, quello che Ulisse Stacchini vede inaugurarsi davanti ai suoi occhi quel primo luglio del 1931 è un'opera imponente, c'è davvero di che esserne soddisfatti. Le arcate che l'hanno costretto a mettere al posto delle pensiline sono alte 34 metri. La lunghezza della galleria di binari è di 340 metri. La facciata è lunga in orizzontale 200 metri. L'area della stazione sono 65.000 metri quadri, cioè una roba grossa. Ci sono 24 binari. Sono tantissimi per l'epoca. Quelli più laterali, diciamo tra il 20 e il 24 più o meno, vengono usati anche per le merci, con un metodo di sollevamento idraulico dal sottosuolo, che in pratica fa sollevare il vagone pieno di merci da sotto a sopra. Sotto viene riempito di roba, poi lo fanno arrivare fino al binario e poi parte. Una roba avveniristica per i tempi, che andrà in uso fino agli anni 90. Cioè non è che l'hanno tolto dopo poco, no, fino al 1995 più o meno si userà sempre questo sistema qua. Nasce una stazione pazzescamente all'avanguardia, e pazienza se quasi tutti faranno notare quasi subito che va bene la maestosità, va bene l'altezza, ma arrivare ai binari da terra a sopra è un casino, perché ci sono delle scale che sono pazzesche e non ci sono ancora le scale mobili, per cui no. Cioè è un casino anche se sei un riccone che le valigie te le porta il servo, ma tu comunque ricco devi fare quelle scale, eh? Cioè non è che sì, magari c'è la portantina, ma insomma non siamo nello scià di Persia, per cui insomma. A parte sua maestà e la sua corte hanno una bellissima sala d'attesa riservata, tutta in marmo, quella tutta, anche fino al soffitto, a cui si accede con un ascensore. Sua maestà non può mica fare le scale, no? Ai binari si arriva invece con le scale normali. Il problema verrà risolto nel 1955 con delle scale mobili. Non so se ve la ricordate, la stazione centrale prima di adesso c'erano delle scale mobili, hanno praticamente distrutto l'idea, no? Architettonica dell'ingresso della stazione, mettendo delle scale mobili al centro che non c'entravano nulla con quello che doveva essere teoricamente la stazione, ma vabbè, è solo il primo di una serie di cambiamenti, che alcuni abbastanza terrificanti, che verranno fatti nel corso degli anni. Il tutto sotto gli occhi vigili da lassù di Santa Francesca Cabrini. E voi vi chiedete perché? Perché la Francesca Cabrini è la patrona dei migranti e a cui viene dedicata da subito la stazione. C'è una targa, tra l'altro, che lo ricorda, eh? Dice testualmente: da questi binari tante volte si avventurò per le strade del mondo Francesca Cabrini. Peccato che la ragazza sia morta nel 1917, cioè 14 anni prima dell'inaugurazione della stazione. E uno potrebbe dire: ma chi cazzo l'ha messa quella targa? Quella targa è stata messa nel 2010, il sindaco di Milano era Letizia Moratti. Non dico niente altro. E allora adesso tocca a voi. Allora qui è difficile. Allora, chi è che vuole sapere di più su Rocktown, quindi altri aneddoti gustosi, meravigliosi, pazzeschi, iperbolici, oppure sapere qualcosa della stazione, di cui sappiamo già tutto, però quindi. Però io non intervengo sul voto, naturalmente, cioè per me è uguale, anche chiaro, no? Chiaro, però cioè, qui c'è una differenza, no? Vabbè, vedete voi, ecco, quindi Rocktown o stazione centrale. Allora, gli applausi vanno fatti per applauso, facciamo, così almeno chi applaude per uno non applaude per l'altro, adesso non vi vedo perché siete bui là in fondo, quindi, però mi fido, ecco, no? Non valgono gli urletti, anche se per Rocktown qualche urlo può andare bene, qualche yeah può andare bene. Allora, cominciamo dalla stazione, dai. Chi vuole sapere qualcosa di più, perché non lo sa, lo sappiamo tutto, però chi vuole sapere qualcosa di più della stazione centrale? Chi invece vota per Rocktown? Oh. Vox Populi, io non c'entro nulla naturalmente, no? Quindi mi sembra che abbia vinto Rocktown, mi sembra, ok? E beh, quindi la prima finalista è Rocktown, Poi se ci avete voglia una roba sulla stazione la dico, ma solo a quelli che hanno votato per la stazione. Trang, così. E allora, gli altri due erano Nuovo Regio Ducal Teatro e Vie d'Acqua, giusto? Perfetto. Da cosa incomincio? Oh, bene, primo che parla, vedi che ha sempre ragione. Allora, track, track. Eccolo. Vie d'acqua. Chissà di cosa parleremo quando parliamo di vie d'acqua. Chissà di che cosa parleremo. Allora, che la zona di Milano sia piena d'acqua lo sappiamo, no? Che se adesso non si vede più niente, perché però c'è Seveso, c'è l'Olona, c'è l'Ambro, no? Sono fiumi, eh? Cioè, Parigi è solo la Senna. Ecco. Poi ci sono i torrenti Nirone e Pudiga, rogge e canaletti spontanei qua e là. Tanto il Seveso è il fiume più vicino al centro città in epoca romana. I romani, che sono di ingegneria idraulica, se ne intendono, fanno una roba che è una meraviglia. Invece di costruire acquedotti, deviano il corso del fiume costruendo un canale circolare intorno alla città da cui attingere l'acqua. E già che ci sono intorno al canale fanno le mura. I romani ne sapevano. Adesso però bisogna fare un salto di qualche centinaia d'anni. Arriviamo a 1152. Federico Barbarossa rompe le scatole ai milanesi chiedendo soprattutto soldi. I milanesi non ci stanno, ma sono insidiati da Pavia, che allora è fedele alleata dell'imperatore. Ecco perché i milanesi, quelli di Pavia, stanno un po' sulle balle. Perché a Guglielmo da Guintellino, che è un architetto genovese al servizio dei milanesi, viene in mente di scavare un canale tra Beategrasso e l'Andriano, ma in realtà lo fa per difendersi da eventuali attacchi dei pavesi. Cioè, i pavesi arrivano e dovrebbero teoricamente finire nel canale, perché non riescono a superarlo, no? Il canale si chiama Ticinello, perché l'acqua del Ticino, perché prende l'acqua dal Ticino, e si dimostra però molto efficace per l'irrigazione dei campi. Non ci aveva pensato il Guintellino. E quindi nel 1179 da Beategrasso ne scavano un altro pezzo in direzione Milano. Poi vabbè, succedono un po' di casini, Barbarossa distrugge Milano, poi viene ricostruita, distrugge le mura, le rifà, e distrugge le mura tra l'altro perché le mura di Milano erano fatte in legno. Quindi arriva il Barbarossa e dice, vabbè, non c'è problema, le brucio. Okay. Quindi i milanesi, quando sono senza mura, le rifanno in muratura. Dice, adesso torna, voglio vedere cosa fai, no? Ecco, e cioè, scava che ti scava, sto canale che era solamente per questioni difensive e poi serviva per l'irrigazione dei campi, scava, in 30 anni, nel 1211, sto canale da Beategrasso arriva, trac, a Milano. Ma arriva nel nulla, perché arriva in un laghetto che c'è dalle parti di Sant'Eustogio. Ed è solo un misero canaletto per l'irrigazione, poi fondamentalmente, sta roba qua. Per carità, lungo 50 chilometri, non è mica poca roba, però non si può utilizzare per portare i merci. Ma questa cosa di portare merci viene in mente a un fiscalista bolognese chiamato nel 1254 dal gran signore di Milano, Martino Torriani, a fare più o meno l'assessore al bilancio, e che poi 3 anni dopo diventa podestà, quindi sindaco, il Beppe Sala dell'epoca. Ecco. Lì il sindaco si cambiava ogni 6 mesi, il gran capo era il signore Torriani, ogni 6 mesi prendeva uno e gli faceva fare il podestà, e dopo alla fine dei 6 mesi doveva andare davanti al Parlamento, diciamo al Consiglio dei 900, a dire vabbè, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, datemi un voto, ditemi che sono bravo oppure ammazzatemi, insomma, più o meno, ma alla fine erano tutti bravi, ecco, okay. Questo qua si chiama Beno Gozzadini, è un fiscalista di Bologna, appunto. Gli viene in mente, quando lo fanno diventare podestà, però potremmo far arrivare le merci, però. Cioè, sto canale è collegato al Ticino, quindi può arrivare dal Lago Maggiore, potenzialmente anche dalla Svizzera, no? Facciamo arrivare le merci. Propone quindi l'opera al Consiglio dei 900, perché per far arrivare le merci bisogna scavare, allargare, perché lì le barche non ci passano, se no. Il Consiglio dei 900 non è del tutto contento, a dire il vero, non ne frega niente ai 900. E gli dice, vabbè, ok, lo vuoi fare, fallo, a patto però che non si azzardi a mettere nuove tasse per finanziare l'impresa. Cioè, prendi i soldi che c'hai. Ok, vabbè, c'è qualcosa. Siccome Beno è un fiscalista, di amministrazione se ne intende, dice, perfetto, i soldi non li ho. Che non ci sono, fa 2 calcoli, non ci sono. Allora cosa fa? non mette nuove tasse, ma prolunga delle tasse che avrebbero dovuto finire quell'anno lì. Cioè non le ho messe nuove, erano quelle vecchie. Quelle vecchie le ho fatte arrivare ancora per qualche anno. Vabbè, quindi mi interessa. E, cosa geniale, mette delle nuove tasse, sì, ma non per i cittadini normali, ma per i preti, che non pagavano tasse fino ai tempi. Allora, i soldi ci sono e l'architetto incomincia a, l'ingegnere, l'architetto fa i progetti, cominciano a scavare. Alla fine del semestre, Gozzatini si presenta al Consiglio di Novecento per ricevere il consueto giudizio sull'operato e pensa, beh, saranno contenti, no? Cioè, ho iniziato una grande opera pubblica. Fin dei conti non sono neanche gravato troppo sulle loro tasche, vabbè, ho fatto un po' il furbetto, però insomma, dai, è una roba bella quello che ho fatto. Con sua grande sorpresa, Gozzadini viene investito di ogni ingiuria possibile dai consiglieri, che agiscono sobillati dai preti. E dicono, ma scaccia, ma sono le tasse, noi non siamo nel Consiglio del Novecento, pensateci voi, no? Gli contestano soprattutto il reato di concussione e gli chiedono di ridare indietro 4.000 denari imperiali, più o meno i soldi che ha ottenuto con le tasse ai preti. Gozzadini fa, ma io non li ho sti soldi, cioè li ho presi e li ho dati a quello là per fare gli scavi, non posso mica avere, ma poi non ho fatto mica una cosa brutta, dai, cioè ho fatto una cosa bella, ho agito secondo l'interesse della città, secondo le indicazioni che mi avete dato voi. Poi alla fine, per tutta risposta, Gozzadini viene preso per il mantello, viene linciato dai consiglieri e il suo corpo viene gettato nel Naviglio. Ti piaceva così tanto sto canale? Ecco, adesso ci finisci dentro per l'eternità. Trac, beccati questa. E quindi? L'allargamento del Naviglio subisce uno stop? No. Il povero Gozzadini paga soltanto la colpa di aver toccato interessi inattaccabili. Il maestro Arribotti, che era quello che faceva i lavori, continua i lavori, i soldi da qualche parte arrivano perché i toriani intuiscono che l'opera è importante e finalmente nel 1272 il primo barcone può arrivare dal Ticino fino a Sant'Eustorgio. Ci vorranno 100 anni ancora per unire poi il Naviglio Grande alla cerchia dei Navigli, a quella che noi chiamiamo la cerchia dei Navigli, e per scopi più che nobili, visto che l'allungamento servirà per portare le pietre di marmo per costruire il Duomo. Ma l'idea del Naviglio, tutto sommato, nasce qui, nasce dal povero Beno Gozzadini. E anche qui, quando parliamo di nuovo Regio Duca al Teatro, chissà di cosa parliamo. Parleremo del Carcano, del Parenti, dell'Elfo. Allora, nel 1776 il Regio Ducal Teatro di Milano è il principale teatro d'opera della città, costruito nel 1708 nel secondo cortile di Palazzo Reale. Avete presente Palazzo Reale? Il cortile dietro, quello in fondo, dove prima tra l'altro c'era un altro teatro che si chiamava Salone Margherita, che non c'entra niente col Salone Margherita del Bagaglino di Roma, assolutamente, distrutto da un incendio. Subito dopo il gran ballo del Sabato Grasso, quell'anno, nel 1776, il Regio Ducal Teatro viene anch'esso divorato dalle fiamme. Qualcuno darà la colpa agli custodi, o a qualche incauto ballerino, chi lo sa. Ma molti in città pensano che l'ordine sia arrivato dal governatore in persona, Ferdinando d'Asburgo, quindicesimo figlio di Maria Teresa d'Austria. Si è insediato da qualche anno il Ferdi e ritiene che Palazzo Ducale non sia una residenza degna del suo rango. Palazzo Ducale è Palazzo Reale, ecco. Con quel via vai di gente che va a teatro, poi, dai, insomma, che a casa sua passa la gente che va avanti e indietro. Nel 1773 Ferdinando chiama un architetto di grido, l'umbro Giuseppe Piermarini, per far diventare Palazzo Ducale splendente come una corte europea. Ma è la madre che c'ha i danè, mica lui, per cui non ci sente. E allora forse il Ferdi incendia il teatro, del tipo: non mi fanno casa mia come la voglio io, faccio in modo che non ci sia tutta sta gente. Trac. Ma tutta sta gente non è gente qualsiasi, sono i nobili milanesi che sono ormai appassionati al teatro d'opera, che dichiarano i nobili che, tranquilli, i soldi per la ricostruzione ce li mettiamo noi. In cambio vogliamo solamente una cosa: poterci intestare i palchi. così quando tutti andranno all'opera ci sentiremo come a casa propria. Una specie di crowdfunding nobiliare, ecco, diciamo. Ferdinando è disperato, perché pensa che gli vogliono ricostruire il teatro sotto casa. Porca miseria, l'ho fatto bruciare, me lo ricostruiscono uguale. Ma com'è sta roba? Maria Teresa allora lo accontenta, impone ai milanesi di costruire il teatro in un posto diverso rispetto a Palazzo Ducale. Anzi, astuta come una volpe, dice ai nobili milanesi: visto che ci avete tanta voglia di teatro, ne costruite due. Uno è nobile e l'altro è popolare. Mi piace così tanto. Date la possibilità di usufruirne anche alla gente normale, no? Il teatro popolare viene chiamato Teatro Cannobiana perché viene costruito dove una volta c'erano le scuole di Paolo da Cannobio e oggi è il teatro lirico. Il teatro nobile, con un enorme sforzo di fantasia, viene chiamato Nuovo Regio Ducal Teatro. Tanto per far capire che c'entra con quello là. Il luogo prescelto però è a qualche centinaio di metri a nord del Duomo, in una zona dove c'è, in quel momento, una chiesa. Una chiesa del 300, Santa Maria alla Scala, che è intanto al cognome della persona che l'ha fatta erigere, Regina della Scala, la moglie di Bernabò Visconti. Viene tranquillamente demolita, non è un problema buttare giù le chiese. Cioè. E il nome per esteso del teatro, per una migliore geolocalizzazione, diremmo oggi, quindi è Nuovo Regio Ducal Teatro alla Scala. Col tempo la novità non c'è più, il re nemmeno, il duca nemmeno, rimane Teatro alla Scala. A progettarlo i nobili milanesi chiamano sempre l'archistar, il Piermarini, che ha, in realtà Piermarini ha una sola grande idea nella vita, che declina in tutti i modi possibili, cioè la classicità. Niente baroccaggini, niente puttini, colonne, colonne, puttini, no, niente arzigogoli. Bisogna fare le cose in modo preciso, in modo austero. Deve somigliare a un tempio greco, un tempio latino, no? Così proprio preciso, severo, proporzionato. Ah. Forse con la Scala Piermarini effettivamente dà il meglio di sé, sia all'esterno col portico per le carrozze, la facciata lineare, neoclassica, sia all'interno intrighi di passaggi, scale, accessi, soluzioni acustiche d'avanguardia e 3.000 posti tra platea e 6 ordini di palchi, i primi 3 per la nobiltà, il 4 e il 5 per la nascente borghesia, il 6, il cosiddetto loggione, per militari, artigiani e giovani aristocratici. Il luogo dove sorge il teatro è una specie di piccolo slargo dove prima c'era la chiesa, sul lato della futura via Manzoni. La piazza, la piazza della Scala, non c'è. E tra l'altro non esisterà per 70 anni, perché davanti al teatro per 70 anni resistono vecchi condomini popolari riuniti in una contrada che si chiamava appunto La Scala. Solo nel 1858 si sceglie di abbatterli e lo sceglierà Francesco Giuseppe in persona, l'imperatore d'Austria, per creare la piazza della Scala e sistemare la statua di Leonardo che c'è oggi. La Scala viene inaugurata il 3 agosto 1778. Ci hanno messo 2 anni a costruirla, eh? 2 anni. Ok, vabbè, c'erano i soldi, ok, va bene, però 2 anni, ecco, per dire. Lo Strehler ci hanno messi 25. Vabbè, ma fa niente. Il Lirico ci ha messo 30 anni per rimetterlo a posto, ma fa niente. Se non voglio dire che è meglio avere Maria Teresa d'Austria, però insomma, comunque, ecco. Venne inaugurata il 3 agosto del 1778 con la prima dell'Europa riconosciuta, opera lirica in 2 atti di Antonio Salieri, quello là, quello che poi ha ammazzato Mozart, secondo alcuni. E a onorare il teatro appena inaugurato nel palco reale chi c'è naturalmente? Il Ferdi! Felice di non avere più nobili, fastidiosi rompicoglioni nel cortile di casa sua. Allora io qua non ho mica delle... C'ho mica delle preferenze, però insomma, qui c'è il teatro e la stazione. Oh, di cose belle da raccontare su tutte e due ce ne sono, eh. Quindi, vedete, qui non proprio per me, uguale, cioè. La stazione, però. Ma però. Stazione. No, l'acqua, no, l'acqua è mai andata. Sì, il naviglio. C'è roba sul naviglio. Sul teatro. Ma però vabbè, vedete voi, ecco. Allora, chi vota per sapere qualcosa di più sul teatro alla Scala? chi invece vota per i Navigli. Ah, miseria, qua. E qua devo andare all'alzata di mano, allora. Supponendo che chi ha applaudito per uno non abbia applaudito anche per l'altro, ecco, io non vi vedo là in fondo, per cui, c'è qualcuno che ha fatto il furbo là in fondo, approfittando del buio, nel buio avvengono le cose più scandalose. Ecco, allora, alzata di mano, ragazzi, allora, alzata di mano per la scala. Ok, mi sembra niente. 1, 2, 3, 4, 5, 5? Sì, giusto. Ok, giù le mani. Alzata di mano per i Navigli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ragazzi, 6 a 5. Incredibile. Dopo i tempi supplementari. Ha vinto i Navigli. Allora, la finale è Rocktown contro Navigli. Mamma mia. Una finale da pelle d'oca, direi, quasi. Ma poi, alla fine, quello che vince ci dici altro? Se volete, sì. Sei la prima a chiedermelo, tra l'altro, eh? Vuol dire che non ti stai annoiando, questo è positivo. Allora, qui, siccome i Navigli... Dov'è? Eccolo qua. Siccome i Navigli l'abbiamo fatto dopo, ricomincio da Rocktown. Direi, no? Siete d'accordo? Ok. Mi prendo questa iniziativa, ma insomma. Ah, eccolo qua. Il numero 2. Qui Allora, abbiamo raccontato quello che è successo il 18 maggio del 57 al Palazzo del Ghiaccio. Che roba fantastica, eh? E Celentano, Enzo Iannacci, 2000 persone, 7000, 5, un casino pazzesco. E continuiamo a raccontare quello che accade a Milano 7 anni dopo quell'incredibile serata. Anzi, 8 anni. 8 anni dopo. Sì, 8 anni dopo. Ho scritto 7 qua, perché? Quando scrivevo, evidentemente avevo dei problemi matematici. 8 anni dopo. Il Vigorelli è un velodromo costruito nel 1935 per ospitare gare di ciclismo su pista. Ha una vita illustre, perché nel 1939 è sede del campionato mondiale di ciclismo, e così anche nel 51, nel 55 e nel 62. Nel 1942, in piena guerra, Fausto Coppi lo usa per stabilire il primato dell'ora, che deterrà per ben 14 anni. Ma non di solo ciclismo vive il Vigorelli. Nel 1963, per esempio, al Vigorelli, Mazzinghi diventa lì campione del mondo di box dei pesi medi. Ma fino al 1965, però, nessuno si è mai sognato di usare il Vigorelli per qualcosa che non riguardi lo sport. Finché un impresario polacco di origine ebrea, sopravvissuto al campo di concentramento di Dachau, Leo Wächter, non so mai capito come si pronuncia, porca miseria, non decide di osare e di fare un salto nel buio. Dopo aver portato in Italia Harry Belafonte, Josephine Baker e Polanca, vabbè, però ai tempi, detto sommato, scrittura i Beatles e organizza 2 loro concerti proprio al Vigorelli. È un vero azzardo, perché nel 1965 in realtà dei Beatles in Italia si parla abbastanza poco, sia nei giornali che in TV, tanto che quando Wächter telefona in Rai per accordarsi per fare riprese televisive al concerto dei favolosi Beatles, interviste esclusive, no, e cose del genere, gli rispondono: i Beatles chi? E poi continuano: guardi, signor Wächter, noi siamo impegnati in cose più importanti, poi di questi Beatles fra qualche anno non si ricorderà più nessuno. La Rai, andate qua, andate qua vicino a protestare. Se ne parla poco dei Beatles, è vero, sì, ma in realtà hanno un esercito di fans, e sono i fratelli minori di quelli che nel 1957 hanno assalito il Palazzo del Ghiaccio. Sono quelli che scalpitano i loro completini e vogliono dirla loro. Hanno la radio, hanno la TV, il frigorifero, il papà ha l'automobile, la mamma ha la lavatrice, e loro vogliono la libertà. Wächter, che è abituato a organizzare concerti e rassegne, queste cose misteriosamente le intuisce. Prende i contatti con Brian Epstein, che è il manager dei Beatles, e forse anche al fatto di essere entrambi ebrei, trovano facilmente un accordo. Non era facile trovare un accordo con Epstein, però vabbè, dai, magari questo link può essere tutto ok. Il tour europeo è molto breve, i Beatles vogliono venire in Italia, perfetto, evviva. Il 23 giugno i Beatles arrivano a Milano in treno da Lione, dove hanno suonato la sera prima. Ad attenderli in stazione ci sono 3.000 persone, insomma, molte sono già al binario 16, che è il luogo previsto di arrivo del treno, che infatti viene dirottato al binario 4. così almeno non c'è casino. Ma infatti Paul McCartney, quando scende dal treno, abituato al delirio, dice: ma dove cazzo fino? C'è nessuno qua. Com'è sta roba? Ma e i nostri fans dove sono? Il resto comunque dei fan sono giù nell'atrio con cartelli e fischietti. Così tanta gente non se l'aspettava nessuno. E infatti non c'è servizio d'ordine. Sono praticamente lasciati alla mercé. A Vector vengono i sudori freddi, perché grazie a un accordo commerciale con l'Alfa Romeo, che gli dà dei soldi, ha noleggiato 4 Spider scoperte per far fare ai Beatles un giro trionfale dalla stazione all'Hotel Duomo, dove i 4 alloggeranno. Ma non si aspettava così tanto casino. Come fa a fargli fare un giro del genere? Ma i ragazzi sono sì scalmanati, ma sono un po' più educati rispetto a quelli di oggi. Ecco, per cui miracolosamente lo spostamento avviene senza problemi. E con un fuori programma, per ingannare i fans che sono in attesa in Piazza Duomo, del passaggio in macchina in galleria, dove le automobili non possono assolutamente passare. Penso che siano gli unici a essere mai passati in galleria su un'auto, i Beatles. Il giorno dopo, i due concerti. Uno è alle 4 del pomeriggio, sotto il sole terribile del 24 giugno. L'altro, un po' più consono, alle 9 di sera. È una scelta geniale, tra l'altro, perché fa intuire quanto Vector ci avesse visto giusto. I fans sono molto giovani, probabilmente non avrebbero avuto il permesso dei genitori di andare a vedere il concerto la sera. E infatti al Bigorelli di pomeriggio ci sono 7.000 ragazzi. Ognuno di essi ha pagato un biglietto che costa, a seconda dei posti, da 750 a 3.000 lire. In realtà non è poi tanto. Beh, 3.000 lire sembra una... ma ai tempi uno dice, chissà quant'è. No, perché ai tempi un caffè in realtà costa 50 lire, un giornale 60 e un LP 1.008. Quindi, vabbè, un disco 1.008, un concerto 3.000. Non è male, dai, tutto sommato, niente di particolare, soprattutto con rispetto ai costi di oggi. I fans, prima dell'arrivo dei Beatles, si sorbiscono l'esibizione di gruppi e cantanti spalla, presentati da Lucio Flauto e Rossella Como. Ci sono Peppino Di Capri e i Rockers, Fausto Leali e i Novelty, i Giovani Giovani, si chiamano così, Guidone, che in realtà è uno che si chiama Guido, solo che è un ciccione, per cui lo chiamano Guidone, poverino, e poi Maurizio Arcieri e i New Dada, che forse sono gli unici che in qualche modo con la musica c'entrano, ecco. E, no, per carità, poi ognuno, magari Peppino Di Capri a uno piace, per carità, poi non so, ognuno ha i suoi problemi, ecco, diciamo. E finalmente, dopo tutti questi qua, uno dopo l'altro, arrivano loro, i Beatles, che in realtà suonano soltanto 12 canzoni, totale 40 minuti, niente bis. Ma chi se ne frega? È un sogno che si avvera vedere da tanto vicino John, Paul, George e Ringo, tanto che sono convinto che tutti questi ragazzini ne conserveranno memoria negli anni a venire, e chi c'era se lo ricorda ancora oggi. Io ricordo di aver avuto un collega anni fa che è stato uno di quei 7.000. È entrato scavalcando i cancelli senza pagare, perché i suoi genitori i soldi per acquistare i biglietti non gliel'avrebbero mai dati, e quando se ne parlava, me lo ricordo, gli si inumidivano gli occhi per l'emozione. Peraltro io, che sono un beatlesiano, appena l'ho saputo mi ci sono inginocchiato davanti. Ovviamente. La sera ovviamente il pubblico aumenta, diventano 20.000, altro che 7.000. Un'enormità, tra l'altro, per i tempi. Resterà un record italiano per tanto, tanto, tanto, tanto tempo. I Beatles poi, spente le luci, torneranno in albergo e poi a fare 4 passi in Piazza Duomo, per poi finire al Charlie Max, che è un famoso night di Piazza Diaz, dove si esibisce Augusto Righetti con Le Ombre, che è il primo nucleo di quello che poi diventeranno i Camaleonti, una pop band degli anni 70 molto famosa in Italia. I Beatles, potremmo dire, vabbè, ma Augusto Righetti, no, in realtà rimangono molto impressionati dal fatto che Righetti suona la chitarra da Dio. I Beatles, ricordiamocelo, non è che fossero proprio dei musicisti pazzeschi, degli virtuosi dello strumento, no? Tra l'altro Righetti ha conosciuto Cliff Richard e gli Shadows, di cui i Beatles hanno suonato un paio di cover, per cui fanno amicizia, rimangono a parlare al Charlie Max con questo qua fino alle 5 del mattino. E poi viaggio in macchina verso Genova, un altro palco e via, verso altri successi. Leo Vector continuerà a macinare concerti, portando in Italia negli anni successivi gli Who e i Rolling Stones. E 12 anni dopo rileverà un vecchio cinema in via San Gallo, talmente macilento che gli abitanti della zona lo chiamano El Pisa, che vuol dire quello che si fa normalmente quando si ha i bisogni, ecco. Lo rinominerà Chuck e lo farà diventare tempio del cabaret milanese molto prima di Zelig. Oh, nessuno tra l'altro sa invece che fine abbia fatto il funzionario Rai che ha permesso l'assenza di riprese del più storico concerto mai avvenuto a Milano. Allora, sui Navigli, io potrei dire tante cose, che però, e però dico questa, perché scelgo il Naviglio che c'è vicino a casa mia. Se parlare del Pavese, ma invece parlo di un altro. Ah, Naviglio Grande, Naviglio Pavese e il Naviglio della Martesana. Martesana. È il Naviglio meno conosciuto, meno fino a qualche anno fa, finché non è scoppiata la moda di Nolo, quindi gli dice, oh, diamo la Martesana, oh, che c'è Nolo. Io ci abito, per cui... figo Nolo, cioè, per carità, no? Però adesso è tutto figo la Martesana, ai tempi non ci andava mai nessuno. Innanzitutto perché si chiama Martesana? Per lo stesso motivo per cui il Pavese si chiama Pavese, perché attraverso un territorio chiamato Martesana, solo che noi non ce lo ricordiamo. Prende il nome forse da un castello che esiste già in epoca bizantina. Il territorio è molto vasto, in pratica è quella che oggi è la parte nord-est di tutta la Brianza, che è un territorio pieno di piccoli castelli, di campi coltivati, di cascine, pievi e così via. Nel 1443, quando Catellano Cotta, fratello del feudatario di Melzo, va dal duca Filippo Maria Visconti a chiedergli il permesso di scavare un canale tra Concesa, appena a nord di Trezzo d'Adda, e Melzo, esclusivamente per scopi di irrigazione. Il duca dà l'ok, ma pochi anni dopo muore, succede un macello, c'è la Repubblica Milanese, bla bla bla, e nel 1450 prendono il potere gli Sforza. Francesco Sforza, il fondatore, capisce subito il potenziale del canale e dice, fino a Melzo, solo per irrigazione, è a me che mi serve, facciamo arrivare fino a Milano, altro che Melzo, e lo rendiamo navigabile. E nel 1457 proclama un editto che dà inizio agli scavi, con un percorso che da Concesa arriva fino alla Cassina de Pom, cioè in fondo a Via Melchiorre Gioia, c'è ancora la Cassina de Pom. Che succede? Che tutti i signorotti locali dei territori lambiti dal Naviglio supplicano il duca di far passare il canale vicino a casa loro, così possono irrigare più facilmente i propri campi e quindi avere approdi per portare a Milano le loro merci. Ecco perché la Martesana, a differenza del Naviglio Grande, che è tutto dritto, e anche di quello Pavese, è tutto pieno di curve. È per quel motivo. Dopo 6 anni di progettazioni, 8 anni di lavori, ci ha messo un po' di più che la scala, effettivamente, però insomma, non era semplice. Nel 1471 il canale viene inaugurato in pompa magna dal figlio di Francesco, Galeazzo Maria Sforza. E 25 anni dopo, l'altro figlio di Francesco, Ludovico il Moro, allungherà il Naviglio dalla Cassina de Pom fino alla fossa interna, cioè fino alla cerchia dei Navigli, dove crea un bel laghetto, il laghetto di San Marco. Oggi c'è un parcheggio. Vabbè. Per arrivare fin lì però ci sono un paio di dislivelli, non è mica facile, eh? Uno è a Gorla e l'altro è vicino a Porta Nuova, e quest'ultimo soprattutto crea dei problemi molto importanti, molto complicati da risolvere. Ma Ludovico il Moro c'ha il jolly, Leonardo Camier, che c'è da fare un problemino, da risolvere un problemino. Leonardo da Vinci arriva, studia un po' la situazione, fa 2 progetti, tac, una bella conca che fa superare il dislivello. Quella conca, che anche se dopo ormai è senza acqua da 90 anni, esiste ancora, ed è la conca dell'Incoronata, è vicino al ponte delle Gabelle. Nonostante anni di distruzione, di peste dopo la caduta degli Sforza, la Martesana resta uno dei principali canali di navigazione fino alla metà del XX secolo. Cioè ci andavano le barche, fino agli anni 50, anni 60. Ci passa di tutto lì sopra, compreso ovviamente appunto barche e passeggeri, e organizzate da agenzie, da impresari che vendono crociere sul Naviglio, da Trezzo a Milano, andata e ritorno. Da Trezzo a Milano ci si mette 7 ore. Ragazzi, si va, c'è mica il motore, si va a remi, per cui... Ma il ritorno però dura 12 ore. perché si è controcorrente, è un casino, anche lì non c'è il motore, quindi si fa più fatica. E tra l'altro bisogna restare a dormire a Milano, cioè si fa 7 ore Trezzo Milano, si dorme a Milano, si riparte il giorno dopo. Perché? Perché sulla Martesana è vietatissimo navigare di notte. Sul Pavese no, sul naviglio grande si può, sulla Martesana invece perché? Forse per via di una leggenda. E siccome l'ho detto all'inizio, a me le leggende piacciono un casino, secondo me questa è roba vera. Allora, si dice che nel 1457 Napo, un certo Napo, figlio di una nobildonna di uno dei paesi intorno alla Martesana, si fosse innamorato della bella Silvia. Ma Silvia era molto bella effettivamente, e un giorno Francesco Sforza la vede. Francesco Sforza quindi la vede e ci prova. Ci prova davanti agli occhi di Napo, che si scaglia contro il duca. Ma Francesco Sforza, ragazzi, è il duca di Milano, non è che questo Napo può fare quello che vuole. Quindi ovviamente viene sopraffatto immediatamente dalle guardie del duca, che lo mettono in galera. Il duca dice alla madre di Napo, che piangendo va a trovarlo, chiedendo scuse, dicendo liberate mio figlio, vi prego. Lo libererò, va bene, lo libererò, ma solamente se pagherai gli scavi del nuovo canale. Beh, vabbè, la madre i soldi ce li ha, quindi consegna i soldi al duca. Ma quando si rende conto che Francesco Sforza non ha nessuna intenzione di liberare il figlio, si uccide, lanciando una maledizione. Ogni anno 7 abitanti della Martesana moriranno annegati nel naviglio e flora e fauna spariranno. Ora, in tutti questi anni non so bene come sia andato con gli annegamenti. Dovrei parlare della sparizione della fauna con tutte le nutrie che ci sono nel naviglio, a dire il vero. Però forse il motivo per cui di notte è molto meglio non navigare nel naviglio è proprio questo, per la paura della maledizione, o perché qualcuno magari navigando all'inizio ha sentito delle strane grida o ha visto degli strani fantasmi. Per cui lo dico a chi magari fra il pubblico vuole di notte andare a correre lungo la Martesana: occhio, lo fate a vostro rischio e pericolo. Adesso dovete decidere chi vince. Allora avete una responsabilità gigantesca, perché voi deciderete qual è la storia più bella, luminosa, indimenticabile, clamorosa, immarcescibile della storia della città di Milano. C'è fuori Beppe Sala, adesso arriva, arriva con la targa, arriva e dico: ah, vediamo chi è che vince, poi lo dico, ragazzi, adesso c'ho qua, mando una mail all'assessore alla cultura, subito. Quindi Rocktown e il naviglio, qua non dico niente, il mio cuore batte, allora, chi pensa che la storia più fantastica della storia della città di Milano sia il naviglio, batta le mani. Mi sa che non ce l'ho fatta. Chi vota Rocktown? No, li avevo già visti, erano in 7. Ho fatto il conto con prima, andate in 11, per cui vuol dire che... E allora, questa sera vince il naviglio, evviva, evviva il naviglio, evviva Milano! Vi posso dire una cosa in più sul naviglio, c'ho un altro aneddoto, se lo volete ve lo dico. Ve lo dico? Va bene. Allora potrei parlare di... aspetta che qua perso dei pezzi, allora tac, eccolo qua. Allora parliamo del Pavese, allora, visto che abbiamo parlato del grande, abbiamo parlato del Martesana, parliamo del Pavese. Allora eccolo qua, il naviglio Pavese. Il naviglio Pavese finisce anche il Pavese, come il grande finisce anche lui in Darsena. E molti potrebbero pensare che il Naviglio Pavese l'abbiano costruito prima i Visconti e poi gli Sforza, insomma quelli che hanno fatto comunque anche in pratica il Naviglio Grande soprattutto, ma la Martesana. Ma non è vero, cioè è vero solo in parte. Allora, nel 1359 Galeazzo II Visconti fa scavare un bel canale tra Pavia e Binasco, cioè le cose che arrivano a Milano incominciano sempre da un'altra parte praticamente, eh? Ok? Ma anche lì per portare acqua ai campi e occasionalmente anche delle merci, perché è abbastanza largo, da Pavia a Binasco può arrivare, ok? Non arriva a Milano, ma non perché non vuole, ma perché oltre Binasco ci sono un sacco di dislivelli e il buon Galeazzo Visconti non sa come superarli. Naturalmente ci riescono 100 anni dopo, perché? Perché arriva il Jolly, cioè Leonardo, tac, no? Nessun problema. E quindi il Naviglio arriva da Pavia a Milano, Binasco Pavia, Pavia Milano. Ma questo Naviglio che arriva da Pavia a Milano non è quello che conosciamo oggi come Naviglio Pavese, è un canaletto più sfigato, piccolino, proprio piscinella proprio, no? Ancora oggi, tra l'altro, tra Binasco e Casarile esiste un pezzo di quel Naviglio che nei secoli è stato simpaticamente denominato Navigliaccio, tanto per far capire che è un po' un canaletto sfigato. E tra l'altro continua a essere navigabile solo da Pavia a Binasco, appunto, cioè nonostante abbiano fatto le chiuse e cose del genere, Milano continua quindi a non avere lo sbocco diretto al mare. Perché la navigazione infatti potrebbe avvenire attraverso il Naviglio Grande, poi un gran macello. Ed è Pavia che ha il controllo delle merci allora, perché Pavia ce l'ha invece lo sbocco al mare, diretto sul Po. Chi risolve il busillis, naturalmente? Napoleone. Napoleone ne ha fatte di ogni. Fa scavare l'attuale Naviglio Pavese, che viene poi inaugurato dopo, quando lui è ancora vivo ma ormai è decaduto, nel 1819. Ma prima di lui, in realtà, non è che gliene è fregata niente nessuno. Qualcun altro ci ha provato. È il Conte di Fuentes, che è il governatore spagnolo di Milano, che nel 1600 si fa dare 50.000 scudi dal governo spagnolo per scavare il canale. Sa che non bastano e quindi cosa fa? Chiede un sacco di soldi a chi abita intorno al canale per il completamento dell'opera e, borioso come pochi, si fa costruire praticamente un trofeo in marmo gigantesco, una specie di altare che lui stesso chiama Trofeo Fuentes, che pone all'inizio del Naviglio, a fianco alla Darsena, per celebrare questa opera che a breve, perché ormai ci vuole poco, no? Congiungerà finalmente il lago di Como e il lago Maggiore con il Po e con il mare. Nel giro di 10 anni però non fa altro che allargare la Darsena e un tratto di Naviglio che parte da lì fino a costruire una nuova conca che tra l'altro secondo molti non serve assolutamente a un tubo ma costa un sacco di soldi. Finché nel 1610 Fuentes muore, il governo spagnolo blocca i lavori, ridà i soldi a chi li ha prestati e il resto si riprende perché ne ha bisogno per scopi militari. E il trofeo Fuentes rimane lì fino al 1870, quindi per altri 250 anni. E resta anche la conca, completamente inutile, almeno fino al 1819, cioè fino a quando poi Napoleone non fa effettivamente il Naviglio Pavese. Poi viene utilizzata per creare energia elettrica per le vicine cartiere Binda e poi per dare il nome a un ristorante meraviglioso che c'è lì a fianco, dove si mangia uno dei risotti più buoni di Milano. E la conca si chiama infatti Conca Fallata. È il ristorante della Conca Fallata.